Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, c'è il nuovo governo, c'è, adesso vi racconteremo il giuramento praticamente in diretta del nuovo governo, dei nuovi ministri, parleremo lungo tutta la puntata anche dei vari ministri, perché quelli che hanno una rilevanza di carattere economico, però, e infatti adesso vedo già che stanno iniziando i giuramenti, allora... davanti al Presidente della Repubblica. Allora, colleghiamoci subito con Elisabetta Fiorito che ci racconterà quello che sta avvenendo in un perfetto orario. Devo dire che per ora l'orario è la cosa rispettatissima dal Ministro Monti. Sentiamo un attimo l'audio. Sta giurando la neo ministra agli interni Anna Maria Cancellieri, nata a Roma nel 1943, prefetto in pensione e fino a maggio commissario straordinario a Bologna. E iniziamo, mentre il giuramento insomma è una pratica assolutamente protocollare, per cui la professoressa avvocato Paola Severino Di Benedetto, ministro della giustizia. Ecco la prossima a giurare. 63 anni, nata a Napoli, penalista di fama internazionale, professoressa alla Luiss. Pubblica di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. E la prima nota è la presenza femminile. Non è un tema che ci ecciti particolarmente, giovani donne, l'abbiamo detto più volte, però è da notare non tanto il numero delle donne, ma i ministeri ricoperti sono quelli chiave, perché appunto il Ministero degli Interni, il Ministero della Giustizia e anche il Welfare vanno a tre donne, rispettivamente agli interni Anna Maria Cancellieri, alla giustizia Paola Severino e al Welfare Elsa Fornero, che molti di voi ricorderanno essere stata ospite in questi anni a Focus Economia, grande esperta di diritto del lavoro e di sistemi previdenziali. Fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. E quello che avete appena sentito è Corrado Passera, la sorpresa forse più forte. Corrado Passera avrà un ministero importantissimo, sviluppo economico e infrastrutture, era fino a pochi minuti fa il numero uno di Intesa San Paolo, nato a Como nel 1954. Grazie. Il dottor Mario Catania, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Mario Catania, poi parleremo anche dell'età. Alla Repubblica di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Un super tecnico, è nato a Roma nel 1952, era responsabile del Dipartimento Politiche Europee al Ministero dell'Agricoltura, quindi dirigente ministeriale. Il professor Corrado Clini, ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Corrado Clini, 64 anni, direttore generale del Ministero dell'Ambiente. Di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Dicevo, Corrado Clini, anch'esso un super tecnico. Negoziatore degli accordi climatici di Kyoto, Kyoto 2, direttore generale del Ministero dell'Ambiente, appunto 64 anni. L'altro elemento interessante, se vogliamo, oltre al ruolo più che alla presenza delle donne, è la composizione geografica di questi ministri. La professoressa Elsa Fornero, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elsa Fornero, molti di voi la ricorderanno. Essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Brava, e complimenti anche a Elsa Fornero, nata a San Carlo Canavese nel 1948, economista all'Università di Torino, esperta appunto di previdenza, vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo, e sono due gli esponenti di Intesa San Paolo, ex a questo punto, presenti nel governo. Se vogliamo usare le battute più che Goldman Sachs, qui c'è Intesa San Paolo. Il professore ingegner Francesco Profumo, ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. E lo abbiamo appena ascoltato nell'intervista della nostra Piera Ceci, Profumo da non confondersi con Alessandro Profumo, ex numero uno di Unicredit. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Dicevo, Francesco Profumo, nato a Savona nel 1953, era attualmente presidente del Centro Nazionale di Ricerca. Sì, vedo molti commenti al 349-238-6666. Certo che gli augureremo un bocca al lupo, e ci mancherebbe, con il periodo che passa al paese. Tutto il governo va sostenuto, visto che è un governo obiettivamente sostenuto da quasi tutto il Parlamento, per ora. Il professor Lorenzo Ornaghi, ministro per i beni e le attività culturali. Nato a Monza nel 1948, era rettore dell'Università Cattolica di Milano. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. E appunto, dicevo, ex presidente, ex rettore della Cattolica. E adesso arriveremo anche a un altro dato, dicevo, oltre al ruolo svolto dalle donne in questo governo, assolutamente di peso, gli interni, la giustizia e il welfare. Mancava solo lo sviluppo economico. Il professor Renato Balduzzi, ministro della Salute. Nato a Voghera nel 1955, il neo ministro della Salute era attualmente presidente dell'Agenzia Servizi Sanitari Regionali. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne realmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Elisabetta Fiorito è in collegamento con noi dal Quirinale. Elisabetta, ci senti? Sì, assolutamente. Ancora sì, un po' di pazienza. Allora, no, un attimo, facciamoli giurare prima e poi arriviamo. Del giuramento del Presidente del Consiglio e dei Ministri, prestato oggi 16 novembre 2011 in Roma nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, sono stati redatti distinti verbali firmati dai giuranti, dal Presidente della Repubblica e dai testimoni. Okay. Dobbiamo dare notizia dei ministri che giurano successivamente. Sì. Successivamente. Quindi da questo istante ha giurato il governo, c'è ancora un po' di esitazione sui giuramenti. Allora, Elisabetta Fiorito, mi sembra che adesso invece stanno giurando solennemente in piedi, ascoltiamo anche questo passaggio. Adesso stanno facendo la foto. Ah, eccoli qua. Adesso sì, vedevo male dal... Tu spostati, sennò vieni inquadrata, Elisabetta. Sì, allora, stanno facendo la foto. Diciamo che l'unica in bianco è Elsa Fornaro, il ministro del welfare. Diciamo anche quanto riguarda le donne che Anna Maria Cancellieri all'interno è la seconda donna ministro degli interni. Se ricordiamo che la prima è stata Rosa Russo Iervolino. È vero. Poi diciamo anche che Elsa Fornero al welfare si troverà a contrattare con altre due donne, il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia e Susanna Camusso, la segretaria della CGIL. Poi non dite che mancano le quote rose, visto che tu hai anche un programma su questo, adesso basta con la polemica sulle quote rose. Ma noi vogliamo sempre... Cioè, il welfare lo fate tra donne, giustamente, ci mancherebbe però. Allora, altri Paola Severino, ricordiamolo, è il primo ministro della giustizia donna. Ecco, quindi è questo tanto per chiudere il capitolo donne. Ricordiamo invece che siamo nel Salone delle Feste del Quirinale, che è uno splendido salone con dei lampadari che non oso nemmeno descriverti, tutti affrescati, dove generalmente giurano i governi. E subito dopo andranno a prendere tutti i ministri, i rispettivi ministeri, ci sarà il passaggio di consegna in ogni ministero, e il Presidente del Consiglio, Mario Monti, dovrà poi indire il primo Consiglio dei Ministri, e in quel momento il Presidente dimissionario, il Premier dimissionario, Silvio Berlusconi, passerà la famosa campanella di Palazzo Chigi. Ecco, allora, sugli orari, su questo, alle 18.30 dovrebbe esserci il passaggio di consegna tra Silvio Berlusconi e Mario Monti, correggimi però se sono cambiati i tempi, e invece domani... E domani è la giornata, è l'intervento del... Un attimo, che c'è il Presidente della Repubblica Napolitano, non vorrei che rilasciasse qualche dichiarazione. Però dicevo, domani vi sarà l'intervento di Mario Monti, prima al Senato e poi alla Camera, se ho ben visto, con anche la replica del Presidente del Consiglio, appunto, Mario Monti. Elisabetta. Allora, noi sappiamo che il Presidente del Consiglio, Mario Monti, interverrà alle 13 al Senato, mentre la conferenza dei capigruppo di Montecitorio deve ancora decidere i tempi, però le ultime indiscrezioni dicono che Silvio Berlusconi prenderà la parola come leader del PDL alla Camera, quindi la discussione alla Camera sarà molto animata. Un attimo, Elisabetta, è il Presidente della Repubblica, però non riusciamo a sentirlo, volevo sentire... Giorgio Napolitano, ma non riusciamo ad acquisire l'audio perché sta commentando di fronte a alcuni microfoni, tra cui anche i nostri, ma non riusciamo chiaramente a fare il punto. Allora, Elisabetta, dicevi? Dicevo che il dibattito alla Camera sarà particolarmente animato, perché prenderà la parola probabilmente il Premier dimissionario Silvio Berlusconi e anche il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani, nonché tutti i leader, tra cui credo che farà il suo esordio Roberto Maroni, che diventerà a breve capogruppo della Lega a Montecitorio. Però prima il piano di governo, diciamo, la presentazione verrà fatta al Senato, all'una. No? All'una, poi come da prassi si vota la fiducia per chiamata nominale, tutti vediamo se sentiamo sentire Napolitano. Ieri durante le consultazioni non ci sono molti sorrisi. No, niente, non riusciamo ad avere l'audio. Scusami per l'interruzione, Elisabetta. Dovere di cronaca. Adesso loro, per esempio, vanno in un altro salone dove generalmente ci sono i ricevimenti privati del... Sì, sì. Vabbè, comunque, tornando al discorso del Senato, intervento di Mario Monti. L'intervento di Mario Monti è molto atteso, perché lui non ha voluto dire nulla oggi per rispetto delle Camere, quindi noi vediamo un Premier molto rispettoso delle istituzioni. Quando gli è stato chiesto cambierete le pensioni eccetera, dice non posso dirlo, lo dirò domani alle Camere, e ovviamente l'intervento lo farà al Senato, poi ci dovrebbe essere ancora una replica e poi farà lo stesso intervento alla Camera. Ovviamente si parlerà soprattutto di politiche economiche, per cui siamo tutti in grande attesa, ma non ha voluto dire nulla. Vabbè, ma è ovvio, perché presenterà un maxi emendamento con tutto dentro. Però dopo la replica verso le 18.30 di Mario Monti al Senato, giusto? Sì, e poi dopo dovrebbe andare alla Camera, non si sa ancora se domani, ma probabilmente venerdì. A quel punto il governo, il momento che è votato anche dalla Camera, sarà nelle sue piene funzioni, si parla di un Consiglio dei Ministri tra venerdì e sabato, già per varare le prime misure, perché sempre per prevenire l'apertura dei mercati di lunedì, come è stato fatto alla sua nomina. Sì, adesso arriviamo ai mercati che sono ancora molto molto alla finestra. Grazie intanto alla nostra Elisabetta Fiorito dal Quirinale. Giustamente un nuovo governo si è insediato, un governo che si siede in un periodo difficilissimo, e adesso arriviamo ai maledetti spread sul debito italiano. Un periodo difficilissimo, alcuni osservatori ben più esperti e con una memoria storica migliore della mia dicono mai un periodo così difficile per questo paese, quindi mi sembra importante sempre il governo del paese, qualunque sia la coalizione che vince, ma in questo caso, vista l'eccezionalità con cui nasce questo governo, visto che ha dietro anche PD, PDL, Terzo Polo, a sostenerlo. Un augurio, delle campane, facciamo le campane, dai. Allora, in bocca al lupo al neogoverno guidato da Mario Monti. Poi saremo qui, l'ho detto già alcuni giorni fa, ve lo ridico, come con tutti i governi di questo paese, analizzare le misure, ascoltare cosa non va, le critiche, i rilievi e anche i punti meno chiari. Vedremo le misure volta per volta. Però ne parleremo già da oggi di quello che dovrà fare da subito Mario Monti. Il tempo infatti non c'è, il tempo è ieri. E soprattutto l'ipotesi che prende piedi, Mario Monti arriverà a annunciare un pacchetto complessivo di misure di emergenza, non una per volta, altrimenti sarebbe un massacro. Quindi, se devi fare delle misure che faranno soffrire, meglio che soffrano tutti contemporaneamente che non inizino i distinguo elementi di uno dell'altro. È chiaro il tema, no? Cioè, se devi toccare le pensioni piuttosto che l'ICI, piuttosto che liberalizzazione, è meglio far tutto in una volta, in modo che sono tutti scontenti e non dover gestire i vari portatori di interesse per mesi o settimane. Dicevo, però, mercati ancora molto molto alla finestra. Allora, il nostro spread era sceso, però stiamo parlando di un livello altissimo, cioè, usando l'esempio di ieri, come se tu avessi avuto la febbre a 43, ti scende a 42, non è che poi puoi essere proprio così contento. 509 punti, la Francia 190, la Spagna 450, la Banca Centrale Europea ha continuato a comprare oggi BTP, quindi titoli di Stato italiani, e Deutsche Bank ha fatto notare però che ormai è l'unica a comprare sul mercato sia la Banca Centrale Europea, cioè sta diventando praticamente il soggetto principale, tant'è che Deutsche Bank definisce il mercato europeo delle obbligazioni BCE dipendente. E arriveremo tra pochissimo ai temi europei. Vorrei darvi un aggiornamento di borsa: più 0,80% Milano, si avvia la chiusura, praticamente sta chiudendo in rialzo, è la migliore oggi in Europa, Parigi più 0,70, Francoforte meno 0,1, Londra meno 0,09 e l'America meno 0,26. Non è che sia la migliore in maniera rilevante, ma è la migliore. Intesa San Paolo, volete sapere Intesa San Paolo? Più 0,80 adesso, ripeto, guadagnava all'annuncio che Corrado Passera lascerà la banca per diventare il nuovo ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture, ha perso e adesso è tornata a guadagnare. Il miglior titolo però resta Azimut, tra quelli a maggiore capitalizzazione, più 5%, Ubibanca più 4,70, Lottomatica più 3,80, Atlantia più 2,70, Fiat più 2,40 come in pregilo, l'1,80 la guadagna Terna, l'1,40 Luxottica ed Eni, ma anche Telecom Italia e Unicredit. Campari meno 4,5 come Fondiere Assai, il 3,40 lo perde Finmeccanica, Parmalat meno 2,40 come A2A, Mediobanca meno 1,80, Tolz meno 1,40 come Autogrill, e poi c'è il tonfo fortissimo della Popolare di Milano, meno 13,4%. Finmeccanica, dopo il crollo di ieri, perde un altro 3,5%, sono dolori per il gruppo in cui Orsi e Guaguaglini non si possono vedere, evidentemente, no? Ancora un po' di pazienza chi chiede dei BTP del livello europeo, abbiamo un approfondimento proprio su questo. Alcuni dati invece di carattere macroeconomico: è uscita oggi l'inflazione in Italia, confermata a ottobre al 3,4%, è ancora bassa ma è ai massimi dal 2008. Pesa, attenzione però, il rialzo dell'IVA, c'è lo 0,6% in più rispetto a settembre, dovuto in buona parte all'IVA e alla benzina. Allora, io non posso tornare sulla polemica di un petrolio che costa meno di 3 anni fa, ma la benzina costa di più. L'ho detto, è un mistero come quello di Fatima. Non riusciamo a uscire da sta cosa. È 4-5 anni che ce lo chiediamo. Comunque a ottobre la benzina ha fatto più 18%, il gasolio ha fatto più 21%. E ripeto, la benzina costa molto più di quanto non costasse ad agosto del 2008, con un petrolio che era molto molto più alto in dollari e anche nel rapporto euro-dollaro. La notizia di qualche istante fa, adesso ve la leggo, come da previsione ha lasciato i poteri a girava da tempo questa voce, a Marco Morelli, Corrado Passera, quindi il posto di Corrado Passera sarà preso da Marco Morelli, che sarà il nuovo consigliere delegato di Intesa San Paolo, e questo come da statuto, perché Morelli attualmente era direttore generale vicario, e appunto essendo vicario, quando va via quello di cui tu sei vicario, li prendi tu i poteri. Vedo anche dei vostri messaggi una grandissima attesa. Allora, vediamo di capirci però. Questo è un governo fatto di tecnici, ma che senza il voto del PDL, del PD e anche del Terzo Polo non va da nessuna parte. Per cui non è che, se molti scrivono adesso finalmente senza i politici tra le scatole forse riusciranno a fare le riforme. Sì, i politici non sono al governo, ma se non votano in Parlamento andiamo a gamballare lo stesso, eh. Elisabetta Fiorito, sei innamorata di Focus Economia. Elisabetta, dimmi. Sei sì, ancora allora, Quirinale? Il saluto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, rivolgo un vivissimo augurio al Presidente e ai membri del nuovo governo in vista del difficile compito che li attende in condizioni altamente impegnative. Il mio cordiale saluto e ringraziamento va nello stesso tempo al Presidente e ai membri del governo uscente, soprattutto a quelli tra loro con i quali più intense sono state le occasioni di incontro e di scambio in ragione delle loro funzioni. E poi Napolitano dà uno speciale ringraziamento al dottor Gianni Letta per la continua e sempre scrupolosa collaborazione istituzionale, per la sensibilità, la competenza, lo spirito di servizio con cui ha contribuito a tenere vivo e limpido il rapporto tra Presidente della Repubblica e governo nell'interesse generale del Paese e della coesione nazionale e sociale. Quindi l'unico nominato è proprio Gianni Letta, Sebastiano. Sì, e poi arriveremo nella seconda ora del programma, avremo l'ex senatore Franco De Benedetti, editorialista del Sole 24 Ore e l'editorialista del Corriere della Sera Antonio Polito, perché oggi le dichiarazioni di Monti ha detto, la non presenza dei politici agevolerà il governo, toglierà motivo di imbarazzo. In realtà tutti sappiamo che Mario Monti fino all'ultimo ha cercato di avere Gianni Letta, si diceva soprattutto, e Giuliano Amato dentro il governo, per cui non vorrei che si fosse un po' la volpe l'uva, non avendocela fatta dice vai, meglio così. Comunque grazie Elisabetta Fiorito per aver fatto la portavoce del Quirinale leggendo quella che è stata la dichiarazione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Allora vorrei chiudere con questa, sono giornate un po' particolari per cui cerchiamo anche noi di darvi un'alternanza tra cronaca e temi di economia. Oltre al dato sull'inflazione e alla benzina che ha fatto più 18% a ottobre rispetto a un anno prima, il gasolio più 21%, c'è un altro dato a mio avviso che meriterà di essere anche discusso, è l'evasione fiscale in questo paese. La Corte dei Conti ha fatto sapere che al secondo posto in Europa dopo la Grecia per evasione fiscale c'è il nostro paese. L'evasione fiscale ormai ha toccato in Italia il 18% del PIL, in Grecia è al 24%. Vedo già molti messaggi sulle differenze tra il ministro Sacconi e il ministro Fornero. Avremo modo per ragionarne nei prossimi giorni. Avremo, mi immagino, anche ospite il ministro Fornero, come altri ministri di questo governo, visto che sono sempre venuti quando non erano ministri, verranno anche quando anche da ministri, no? Chiusura definitiva più 0,80%. Io andrei adesso col meteo e la pubblicità, poi partiamo con la reazione europea, ma anche le tensioni europee sugli spread. C'è una frase però di un ministro francese che mi fa impazzire, ve la leggo prima del meteo, perché la Francia, come avete visto, è sotto pressione, ha dei livelli di spread che sono simili a quelli, anzi identici a quelli che l'Italia aveva 4 mesi fa, teme di essere la prossima vittima, e lì un po' l'arroganza francese si smonta. Noi modestamente abbiamo degli ospiti che da mesi dicono che la Francia, se va giù l'Italia, ha tutte le probabilità di diventare la prossima vittima. Comunque, oggi lo spread francese è andato vicinissimo ai 200 punti e loro, che si sentono così simili alla Germania, devono ammettere e riconoscere che hanno invece 200 punti di differenza da quello che è invece il rischio tedesco. Il ministro del bilancio francese Valérie Pécresse ha detto: l'aumento dello spread tra i titoli di Stato francesi e tedeschi è ingiustificato. Ah, guarda che è una bella forza sti francesi. Allora tutti i paesi potrebbero dire: anche per noi è ingiustificato che l'Italia abbia uno spread più alto della Spagna, avendo dei fondamentali economici molto, ma molto migliori di quelli spagnoli. Però voglio dire, fino a un mese fa Sarkozy, il presidente a cui fa capo Valéry Pécresse, ci spiegava che invece l'Italia deve fare il suo risanamento, deve fare le sue cose, i suoi compiti a casa. Non è che poi quando te lo becchi tu lo spread è ingiustificato per te. Bella forza sti francesi, vai, meteo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Torneremo sul governo che ha appena giurato una chiosa. Oltre al primo governo con 3 donne in ministeri chiave, come appunto sono il Ministero degli Interni, che è il ministero forse più importante assieme all'economia e agli esteri, il Ministero della Giustizia, gli Interni Anna Maria Cancelliere, la Giustizia Paola Severino e il Welfare, perché dico che è importante? Perché sappiamo tutti che nell'orizzonte c'è anche una riforma delle pensioni, con Elsa Fornero. Questo governo si caratterizza, appena nato, ed è un po' un'ironia della sorte, per essere il governo che ha il maggior numero di Lombard presenti. Dico ironia della sorte perché è l'unico partito che non l'appoggia, la Lega. Sono ben 6 i ministri lombardi, poi c'è uno ligure, un piemontese e un bolognese, e 3 soli ministri che vengono dal sud: Paola Severino, l'ammiraglio Giampaolo di Paola e Antonio Catricalà. Da Roma 5 ministri, per cui sarà una nota di colore, ma insomma l'unico governo senza la Lega è il governo con maggior numero di ministri Lombard. Come si sono mossi invece gli spread? Torniamo a essere molto seri, e quindi dobbiamo raccontare purtroppo un'altra giornata in cui, un po' come certe febbri, visto che così la stiamo chiamando, abbassi di pochissimo la temperatura, ma la temperatura resta sempre su livelli non accettabili che un paziente non può gestire a lungo. 349-238-6666 per i vostri sms. E ne parleremo tra un attimo con Moria Longo del Sole 24 Ore. Buonasera Moria. Buonasera a tutti. Mentre in collegamento con noi da Bruxelles c'è Antonio Poglio Salimbeni, corrispondente dell'agenzia di stampa Radio Cor da Bruxelles. Buonasera Antonio. Buonasera a voi. Allegria, c'è un nuovo governo, allegro. Siete tutti tristi a Bruxelles. In realtà sono in treno da Strasburgo a Bruxelles. È per questo che sei triste, vabbè. Esatto. Allora, le reazioni a Bruxelles sul nuovo governo, ma soprattutto le dichiarazioni arrivate oggi sulle tensioni, perché insomma abbiamo visto Angela Merkel dire: sono pronta a cedere parte, cioè la Germania, non lei, parte della propria sovranità, una modifica è necessaria nell'area euro. La Merkel intende incontrare Monti quanto prima. Da Berlino dicono: ci aspettiamo grandi riforme. Barroso dice: la crisi sistemica, servono misure aggiuntive. Mi sembra che stia passando anche nella testa tedesca l'idea che questa crisi la risolvi solo se trasformi un po' l'euro e chi lo governa. Ormai questa posizione politica sta emergendo molto chiaramente. Si tratta di vedere quali saranno le prossime mosse nei primi appuntamenti, nelle settimane che seguiranno questa fase. Il problema è se è possibile entro l'anno davvero trovare l'accordo su 4-5 cose da fare entro giugno dell'anno prossimo. Purtroppo una nuova governance economica con maglie più strette al controllo preventivo sui bilanci e soprattutto potrà avvenire soltanto entro 6-9 mesi. Il problema è che comunque questo quadro di decisioni non cambierà i termini attuali della gestione della crisi greca e per quanto riguarda il comportamento del fondo salva stati, qui ancora le mosse sono troppo lente. Sì, cioè, tu dici anche se si mettessero d'accordo per dare più poteri alla parte euro, anche alla Banca Centrale Europea, tutto questo avverrebbe quando ormai le scadenze greche ci sono già state, saremmo già a gennaio, ci sono anche quelle italiane, per cui... Esattamente, il problema è che i governi devono dare una risposta alla sfiducia totale dei mercati sul fatto che gli stati siano in grado di ripagare i propri debiti, la fuga dai titoli, l'assenza sostanzialmente di un mercato secondario in questa fase riflette proprio questo. E di questo abbiamo conferma sia perché lo dice la Deutsche Bank oggi, ma anche alcuni ascoltatori, cioè il mercato secondario delle obbligazioni. Tu le obbligazioni, i titoli di Stato li puoi comprare o quando c'è un'asta, oppure nel mercato secondario, cioè quelli già comprati che vengono venduti. Ecco, quel mercato lì si è fermato, cioè è vuoto. L'unica che compra i titoli sembra essere la Banca Centrale Europea. Antonio. Esattamente, sta succedendo questo. Il problema è che finora le mosse, le decisioni prese a livello europeo dell'Eurozona non hanno convinto i mercati, anzi a ogni mossa è seguita una conferma della sfiducia sulla possibilità di gestire in modo corretto la situazione. Sappiamo che tra l'altro a giorni dovrà scattare definitivamente l'operazione sul debito greco sulla base dell'accordo tra le banche private, tra le banche. Il governo di Atene ancora non si sa come butterà. E poi per capire la durata e anche la tenuta, scusatemi, più che la durata del governo Monti, insomma ci sono quattro aste cruciali per i nostri BTP, l'ultima è a metà aprile, per cui insomma il governo da qua a metà aprile quattro aste a 200 miliardi di euro. Grazie Antonio Poglio Sarimbeni, in collegamento con noi tra Strasburgo e Bruxelles. E il traffico, poi con Moria Longo la parte delle tensioni sugli spread e invece con i colleghi di Radio Cor la borsa. 349-238-6666 per gli sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Moria Longo, fermo restando che da qua ad aprile abbiamo 200 miliardi di scadenze di debito e che sarà il test più importante sulla tenuta del governo, però spiegaci perché si sono irrigiditi questi spread, nel senso che almeno prima oscillavano, scendevano, qua ormai da una settimana che sono fermi, la Francia continua a salire, noi abbiamo una difficoltà estrema a scendere sotto quota 500, che comunque sarebbe una quota alta, anche 490-480. Che cosa sta capitando in Europa sul fronte obbligazionario e quindi dei titoli di Stato? Io credo che i mercati ormai non guardino più tanto all'Italia, alla Grecia, alla Spagna o all'Irlanda, ormai guardano l'Europa intera. Lo dimostra anche la giornata di oggi. Oggi lo spread italiano è lievemente sceso, oggi, attualmente a 5,25, era ieri un pochino più alto, è invece salito ai massimi storici quello della Francia. Questo cosa vuol dire? La Francia è un paese con rating AAA, quindi un paese forte, anche se ci sono continue voci che in discrezione secondo cui potrebbe perdere questo rating così forte. La speculazione è andata contro l'Austria, anche l'Austria che è un paese forte, AAA, ha un rating, ha uno spread sempre più alto, la Finlandia. Cosa sta succedendo? Il mercato ha capito che l'intera impalcatura dell'Unione Europea è in crisi, per tanti motivi. Innanzitutto perché abbiamo creato questo fondo salva stati e adesso ci rendiamo conto che non è in grado di salvare nessuno, perché non ha sufficienti soldi, non è in grado di finanziarsi. Cioè 1.000 miliardi non bastano? 1.000 miliardi non ce li ha tuttora, attualmente la dotazione è 440 miliardi, ma non ha soldi, il fondo salva stati ha garanzie. E sapete chi garantisce il fondo salva stati? Per il 50% paesi con rating AAA come la Germania, ma per il 36% i famosi PIGS, Italia, Grecia, Portogallo e Irlanda. Se la Francia perdesse il rating AAA, i paesi diciamo in difficoltà avrebbero un peso, una garanzia, garantirebbero più loro il fondo salva stati che i paesi forti. Quindi è ovvio che è un fondo che ha delle grandi lacune. La Banca Centrale Europea non ha mai fatto quello che fanno altre banche centrali per stampa moneta, ecco, non l'ha mai fatto, mentre tutte le altre banche centrali lo fanno. Si parla continuamente di separazione dell'euro, euro a due velocità, di fuoriuscita dall'euro. Fanno tutti i calcoli i tedeschi, come sarebbe l'euro non a due solo velocità. I tedeschi, anche gli olandesi, anche i finlandesi, non sono, se ne parla. Allora, è ovvio che sia l'impalcatura dell'Unione Europea che sta cedendo. Mi sembra che la dichiarazione di Angela Merkel oggi, che ha detto siamo disposti anche a cedere un po' di sovranità, la dica lunga sull'urgenza che perfino i tedeschi a questo punto hanno capito che se gli va giù anche la Francia restano da soli col cerino. Sì, anche perché se loro entrassero nell'euro forte e gli altri paesi nell'euro debole, ricordo che la Germania vive di esportazione, il secondo più grande esportatore al mondo dopo la Cina, ma la Germania esporta per 80% nell'area euro. Allora, se non ci fosse più l'euro, ma il marco tedesco o l'euro forte salisse, io dubito che la Germania riuscirebbe a esportare noi, lo dico già a chi ha intenzione di scrivere facciamo l'euro debole, c'è la vecchia lira. Attenzione, con l'euro debole l'ipotesi è di un euro forte in Germania, paesi del nord, che vale uno, cioè come da adesso, e il nostro vorrebbe la metà. Allora, è vero che esporteremo tanto, che faremo concorrenza alla Germania, è anche vero che imbarcheremo un'inflazione spaventosa, perché il petrolio si paga in euro, allora vorrebbe dire in dollari, e vorrebbe dire se dimezzi il valore dell'euro attuale, tutto quello che importi ti costa il doppio, quindi va bene che esporti, e poi però su tutti i consumi interni la voglio vedere. Grazie Maria Longo, sei stato chiarissimo come sempre. Vorrei chiedere a Eleonora Micheli, buonasera, Radio Colli sulle 24 ore. Buonasera. Al di là dei commenti che abbiamo fatto in tutta l'apertura sulla borsa e su Intesa San Paolo, la Popolare di Milano meno 13% si sta allineando al livello dell'aumento di capitale, però UbiBanca e Azimut più 5,3% da un lato, dall'altro invece Fondiaria Sai meno 4,5%, e se mi commenti due ci aggiungi anche Finmeccanica, una nuova botta non forte come ieri ma un altro 3,5% di calo. Proviamo a far tutto. UbiBanca più 5,1% oggi, la reazione ai conti annunciati ieri, c'è solo stata questi una press call, analisti positivi, i conti sono risultati superiori alle attese e questo è un po' il commento comune di tutti gli analisti, per cui appunto questo più 5%. Per quanto riguarda BPM, venerdì si chiude l'aumento di capitale, le azioni hanno chiuso a 0,30 euro, esattamente il valore a cui sono state messe le nuove azioni. Quindi Azimut più 5,3%, in questo caso ha reagito, cioè probabilmente mette in conto un miglioramento dei mercati, chi lo sa. Per quanto riguarda Fondiaria Sai, meno 4,5%, subisce il fatto che proprio quest'oggi la compagnia assicurativa insieme a Milano Assicurazioni, che è la controllata, sono state bocciate dall'agenzia di rating Standard & Poor's, che ha appunto rivisto al ribasso il giudizio, puntando l'indice soprattutto sulla limitata patrimonializzazione del gruppo assicurativo e anche sull'eventuale necessità di rafforzare ulteriormente le proprie riserve per sinistri. Sì. Allora, brava, perché visto che ce l'hai fatta far tutto, ti chiederò un altro titolo che è Fiat, perché oggi sono usciti i dati sulle immatricolazioni europee di auto. Chiaramente a ottobre il mercato ha fatto meno 1,4, però Fiat ha fatto meno 10. Fiat. Sì, meno 10 le immatricolazioni. Di una in borsa, sì. I titoli hanno oscillato per gran parte della seduta e poi diciamo che sul finale si sono ripresi, nonostante peraltro il settore auto europeo sia rimasto debole, più 1%, evidentemente si scommette su un recupero delle quotazioni che sono molto basse, le azioni stanno a 4 euro. Allora, grazie anche a Eleonora Micheli per questo aggiornamento più rapido del solito, ma la giornata oggi è la giornata ancora del neo governo, ne parliamo dopo il GR, le sfide che attendono Mario Monti e i suoi ministri, quali riforme anche dure deve mettere in piedi in tempi rapidissimi. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia, in cui cerchiamo di affrontare, per quello che si sa, cosa dovrà fare, i temi, i punti che avrà subito da svolgere il neogoverno, visto che ha firmato meno di un'ora fa, di Mario Monti. Morelli ha preso il posto di Corrado Passera in Intesa San Paolo. Dicevamo, oltre che essere un governo con 17 ministri, erano 23 nel governo Berlusconi, 12 ministri sono senza portafoglio. I ministri veramente sono 16, cioè i ministeri sono 17, ma siccome Mario Monti terrà per sé l'interim all'economia, i ministri sono 16. E tra l'altro, voto di fiducia domani in Senato alle 20:30. Oltre, ripeto, al fatto che tre donne abbiano di castelli molto importanti, Anna Maria Cancelliere la giustizia, Elsa Fornero il lavoro e Paola Severino. Tra l'altro, su questo ci sono 6 ministri lombardi e 5 romani, 3 del Mezzogiorno, per cui insomma, la cosa non interna i cancellieri giustizia Severino e welfare Fornero sono di castelli molto importanti. Vorrei sapere, non ci sono ministri politici ma solo ministri tecnici, questo l'abbiamo detto più volte, nel ringraziare per averci raggiunto in collegamento l'ingegner Franco De Benedetti, editorialista del Sole 24 Ore ed ex senatore PD, beh, se dà anche un'importanza a questi elementi oppure no. Scusi, io non ritengo che fosse importante né una cosa né l'altra e quindi credo che sia sostanzialmente non questo il punto rilevante. Cioè, anche il punto se... rilevante è che questo è un governo di emergenza. Allora, l'emergenza bisogna dire in che cosa consiste? In che cosa consiste la dove si vuole operare per superare l'emergenza e anche dare un orizzonte temporale a questo? Allora, in che cosa consiste l'emergenza? Io credo che come uscirne? Io credo che ci sono 3 punti. Primo, agire sul lato della spesa. Secondo, agire sul lato della crescita. Terzo, agire sul piano della ristrutturazione, delle modifiche istituzionali dell'euro. E questo è un punto che non tutti, mi sembra, hanno ricordato. Ora, sulla spesa, lì parlare di tagli della spesa evidentemente vuol dire sicuramente vuol dire andare a disturbare degli interessi, a toccare degli interessi. Questa è la parte che lei diceva forse vorrà fare subito per dare immediatamente, per mettersi immediatamente, per godere immediatamente della fiducia che già la stampa, già le dichiarazioni pubbliche degli esponenti politici gli hanno dato. La seconda cosa, e questa è una roba breve, da fare subito. L'altro è le provvidenze per la crescita, e queste si sa che sono molto più lente, intrinsecamente più lente, perché non si mette in moto un paese che ha 10 anni che non cresce nel giro di qualche mese. Questa è una cosa che andrà sicuramente al di là di questa legislatura. Il terzo punto importante è di sapere e di ricordare che i guai che noi subiamo sono in parte dovute al fatto di non avere saputo dare delle risposte adeguate al crescere della crisi, ma in grandissima parte dipendono dipendono dall'euro, dalla istituzione dell'euro e dai governanti dei paesi, in modo particolare la Germania, che si sono dimostrati incapaci di gestire la crisi dell'euro da quando è incominciata in Grecia. Ora questo, noi facciamo parte dell'euro. Ora sarà molto importante, secondo me, è quello dove il Monti potrà dare il massimo di contributo per la grande credibilità che lui ha in Europa. Perché l'Italia abbia di nuovo una voce autorevole per la riforma dell'istituzione dell'euro, senza di che non ne usciamo, ma non solo noi. Allora, d'accordissimo sull'ultimo punto, anche perché spesso abbiamo detto modestamente in questa trasmissione che se la Germania, invece che pensare al breve termine elettorale dei vari Länder, se Angela Merkel avesse deciso di salvare subito la Grecia, ci saremmo risparmiati miliardi di euro in meno di capitalizzazione di borsa e tutto quello che abbiamo assistito, nonché l'attacco ai debiti sovrani degli altri paesi. È stato un po' l'errore dell'amministrazione Bush con Lehman Brothers, pensare che diamo una lezione, in realtà non riesce a reggere la lezione. Che sì, quella era una banca, qui sono 5-6 paesi. Sì, ma dico, d'accordissimo con lei sulla Grecia, e quindi le dice, l'Italia adesso che riacquista una credibilità, giusto o sbagliato che fosse averla persa, in questo momento deve anche tornare a porre il tema della governance europea. D'altra parte noi siamo tra i paesi fondatori dell'euro, quindi certo. Abbiamo tutti, credo, anche perché non è che Merkel e Sarkozy abbiano dimostrato di essere Adenauer, No, questo non lo diciamo solo noi, ma viene scritto anche in tutti i giornali del mondo, anche quelli che ci criticano a proposito e a sproposito, che ci hanno criticato a proposito. Quindi, ruolo internazionale dell'Italia per ridefinire la governance, ossia come si prendono le decisioni nell'area euro? Per aiutare il problema dell'euro, perché il problema dell'euro è un problema che ci riguarda tutti. Certo. E di cui noi soffriamo di più perché siamo più grossi, ma solo perché siamo più grossi, non perché siamo peggio. Allora, e su questo siamo tutti d'accordo. Vorrei tornare ai primi due capitoli che lei ha citato. La spesa, riduzione della spesa, quello che deve essere fatto subito. Questo secondo lei significa aumento dell'età pensionabile, quindi comunque riforma delle pensioni, ma anche riduzione della spesa pubblica, e se sì come? Le privatizzazioni le mette dentro la parte spesa o la parte crescita, per esempio? Che cosa, scusi, non ho sentito. Le privatizzazioni. Le privatizzazioni sono sul lato della crescita, sostanzialmente. Io le metto sul lato della crescita sostanzialmente, perché in fondo non è che le privatizzazioni incontrano delle resistenze ideologiche e quindi in qualche modo vanno, queste resistenze ideologiche vanno smantellate subito, e quindi secondo me devono fare parte della prima della terapia d'urto, se vogliamo. Però dove il vantaggio delle privatizzazioni è per la crescita, e quindi è un fatto di lungo periodo, di medio periodo, insomma. Pensa alle municipalizzate, certo. Non è che si toccano degli interessi, molto circoscritti, se vogliamo. Ecco, per cui sul fronte delle misure da fare subito, la spesa, lei che cosa vede? Oltre alle pensioni, anche una patrimoniale, magari sotto forma di un ICI sulla prima casa, rivalutazione delle rendite catastali che sono ferme al 1996, o cosa? Ma guardi, qui bisogna fare molta attenzione, perché queste austerità e crescita vanno in direzioni opposte. Noi non possiamo pensare di levare dai soldi, finché si tratta di levare dai soldi dello Stato e darli e richiedere che vengano comprati dall'iniziativa privata, è un conto. Ma se si levano dei soldi dall'economia, non è che l'economia cresca, qui non è questione di essere che... No, però noi, guardi, c'è un dato oggi, ingegnere De Benedetti, che dice la Corte dei Conti, l'evasione italiana è il 18% del PIL, siamo il secondo paese dopo la Grecia quanto evasione fiscale. Forse cercare anche di redistribuire. Senta, quanti, adesso l'avrà detto l'ultima volta la Corte dei Conti oggi, ma io credo che un decennio che lo sentiamo ripetere, o di più, non lo so. Sì. Forse è anche un buon momento per attaccare un po' di evasione, ridistribuendo, magari riducendo il cuneo fiscale. Mi scusi, lei crede che c'è qualcuno che non voleva, che nei governi precedenti, che non voleva recuperare l'evasione? No, scusi, perché mi sembra che non è che si dica c'è l'evasione e c'è qualcuno che la vuole e qualcuno che non la vuole. C'è qualcuno che ci riesce e qualcuno che ci riesce un po' meno. C'è qualcuno che sembra riuscirci e qualcuno che non sembra riuscirci. Ma non è così semplice, non basta dire la faccio. Anzi, credo che sarebbe un buon consiglio se il presidente Monti non parlasse del recupero dell'evasione. Ne abbiamo sentito parlare anche troppo. Ne parli quando ce n'è un po'. Allora, ingegnere De Benedetti, chiara la sua posizione, so che lei ci deve lasciare, mentre ringrazio per averci raggiunto in collegamento anche Antonio Polito, che è editorialista del Corriere della Sera. Buonasera Antonio. Buonasera a voi. Un minuto di pazienza, c'è il traffico e poi anche per te, insomma, le priorità, dette le appena ricordate, spesa, crescita e ruolo internazionale dell'Italia. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, Antonio Polito, sei d'accordo, insomma, che possono essere divise in queste tre fasi? Mi sembra che tutti siate d'accordo, voi, insomma, editorialisti, che Monti dovrà presentare un pacchetto di riforme dure, e quindi vedremo le pensioni, visto che c'è Elsa Fornero, vedremo un principio di patrimoniale eventualmente, e quant'altro assieme, cioè facendo scontenti, diciamo, tutti i vari portatori di interessi in una volta sola. Diciamo, questo è l'unico senso che può avere un governo di, diciamo così, sostenuto da una maggioranza molto ampia, con i due maggiori partiti dentro. Cioè, il vantaggio è quello che del resto Monti stesso ha rivendicato più volte nei mesi scorsi, cioè di un governo che può fare una cosa che infastidisce l'elettorato del centrodestra e una cosa che infastidisce quello del centrosinistra, perché entrambi i partiti come dire, sanno che anche l'altro paga un prezzo, no? Quindi in qualche modo alla fine si pareggia. Quindi questo penso che sia la sua intenzione, tant'è vero che ha parlato di rigore, ma poi ha sempre aggiunto anche in queste consultazioni con attenzione, con più attenzione all'equità, no? Che è un modo di dire faremo i sacrifici, ma li faremo in un modo che diciamo, non verranno colpiti sempre i soliti. Questo è un modo anche per, come dire, per parlare al centro-sinistra, al sinistra, al PD che è entrato nella maggioranza. Allora, Corrado Passera, neo ministro di Castello molto importante, sviluppo economico e infrastrutture, poco fa la prima dichiarazione da ministro. Certamente tutti i ministeri, e il nostro in particolare, deve occuparsi di crescita sostenibile, di creare posti di lavoro, di dimostrare che l'Italia è molto di più di quello che i mercati pensano o hanno pensato in questo periodo. Io sono fiducioso che si possano convincere i mercati con piani chiari, con azioni concrete, con grande coordinamento, con buon senso. Insomma, i mercati vogliono, si aspettano da noi che diamo tutto questo. Sì, e forse la cosa più difficile oggi, perché tutto è successo così velocemente, è stata la mancanza di tempo nel salutare tutti, quindi ho potuto soltanto farlo con poche persone. 10 anni vissuti come abbiamo vissuto non si riescono a chiudere in un giorno. Così Corrado Passera, l'ultima domanda era appunto se ha salutato frettolosamente i suoi collaboratori in Banca Intesa. Ripeto, il posto è stato preso dal direttore generale vicario Morelli. Antonio Polito, fammi fare una battuta, visto che continuano queste polemiche un po' così su Goldman Sachs, la trilaterale, ma visto che c'è dentro il governo Corrado Passera e Elsa Fornero, è più il governo delle Banca Intesa che di Goldman Sachs, no? No, adesso... No, infatti è vero, secondo me la vera notizia, la vera sorpresa, non dico rispetto a ieri sera che non si era capito, ma rispetto a qualche giorno fa, è proprio l'ingresso di forse il più grande banchiere italiano. Sì, no? Sì, no, in assoluto, come ruolo, diciamo, vista la banca che dirigeva, sicuramente il più grande. Diciamo, insieme a Profumo, che era uscito di scena qualche tempo fa. Insomma, l'amministratore delegato della più grande banca italiana, quindi è veramente una novità rilevante. Vedremo. È vero, Monti ha ricordato correttamente che Passera in realtà non ha sempre fatto il banchiere, ha fatto anche il presidente delle Poste, certo. Anche il presidente delle Poste italiane, certo. Ha fatto le Poste, ma prima ancora ha fatto l'amministratore delegato nel gruppo De Benedetti, cioè quindi in attività industriali, cioè in realtà ha un curriculum, diciamo, abbastanza ricco sul versante. D'altra parte è anche vero che con tutta questa polemica sui banchieri, il governo dei banchieri e così via, ci vuole un notevole coraggio politico da parte di Monti a aver messo un banchiere nel governo, quindi diciamo, ci aspettiamo allora, tutti che faccia bene. Poco fa Sarkozy, le settimane che vengono saranno decisive, insieme a Mario Monti ce la faremo, è un po' di strizza gli sta venendo Sarkozy con lo spread a 200, lo dico con massimo rispetto. Altro tema, rispondimi anche tu, visto che De Benedetti poco fa ha detto no, secondo me non è un elemento rilevante, ma insomma il numero dei ministri che è più basso, 16 contro 23 del precedente governo, 3 donne in dicasteri centrali, a welfare Elsa Fornero, appunto agli interni Anna Maria Cancelliera, alla giustizia Paola Severino, e un'altra nota che a me fa un po' sorridere, il maggior numero di lombardi presenti in un governo da sempre. Mi fa sorridere perché è un governo non appoggiato dalla Lega Nord. Sono elementi che hanno un peso oppure sono così folklore per giornalisti? No, secondo me nei confronti, io l'avevo anche suggerito, diciamo scritto in un articolo qualche giorno fa sul Corriere, questi sono elementi che parlano all'opinione pubblica. Noi dobbiamo stare attenti perché questo governo, che sembra un po' figlio di nessuno, no? E certo politicamente è un po' strano perché non c'è nessun politico dentro, eccetera, eccetera. Si è addirittura detto che diciamo, interrompe la democrazia, la politica democratica, un governo di questo genere. Bisogna stare attenti perché in realtà gode di una luna di miele con l'elettorato. Tutti i sondaggi segnalano una fortissima maggioranza di italiani che è disposta a dare fiducia al governo Monti. Quindi questi sono 3 elementi rivolti all'opinione pubblica, importanti. Uno è il numero dei ministri, si può fare con molti meno ministri, quando in genere si fa con i, sappiamo tutti che i ministeri politici vengono spacchettati e dati per ragioni di per soddisfare le brame. Le tre donne, ma poi tre donne in che posti, diciamo, in termini di giustizia, io credo mai prima un governo abbia avuto. La Russo Iervolino mi facevano notare. No, la Russo Iervolino sì, ma mai contemporaneamente. Ah, mai contemporaneamente, donne, no, certo. La giustizia probabilmente mai, in assoluto. Quindi, insomma, una cosa importante. E anche il welfare, visto che si parla di riforma delle pensioni. Anche il welfare, poi, che, insomma, anche un esperto di primissimo piano, no? Sul tema delle pensioni, eccetera, eccetera. E quindi questi sono segnali, diciamo, sì, rivolti all'opinione pubblica, per dire siamo diversi dai politici. E veniamo e chiudiamo proprio sulla politica, perché continuiamo a ripetere, il governo è tecnico solo perché è composto da tecnici, ma è politico, nel senso che la fiducia e il voto glielo deve dare il Parlamento. Allora, Mario Monti, non è un mistero, ha cercato, il neo Presidente del Consiglio, fino alla fine di avere dentro due esponenti molto forti del PD, uno del PD e uno del PDL, si è detto soprattutto Giuliano Amato e Gianni Letta. Oggi però ha detto la non presenza dei politici agevolerà il governo, toglierà motivo di imbarazzo. È la volpe l'uva, visto che non ce l'ha fatta, dice vabbè, meglio così, oppure secondo te il ragionamento ha una struttura un po' più forte, particolare? Guarda, io non lo so bene, io mi sono chiesto perché avesse insistito tanto e ripetutamente, anche quando era chiaro che i partiti non volevano di avere qualche politico dentro. Anche se poi politici molto sui generis, perché Letta e Amato, esatto, non hanno nessuna golden share nei rispettivi partiti che avrebbero dovuto rappresentare, quindi non riuscivo a capire perché. Io mi sono fatto l'idea, ma posso sbagliarmi, che lui in realtà abbia voluto insistere su questo punto per farsi dire un no, nel senso che a questo punto nessuno nei partiti gli può dire ah guarda, questo non va bene, quello non va bene, perché lui ha detto se volete io sono felice, venite, entrate, mettete dei vostri esponenti al governo. Quindi una volta che i partiti hanno detto di no, le sue mani sono state molto più libere nel formare il governo, che in effetti è stato formato secondo i criteri dell'articolo 92 della Costituzione, cioè lui propone e il Presidente della Repubblica nomina. C'è un solo aspetto per cui diciamo questa questione di politica è un po' delicata, cioè la gestione del rapporto col Parlamento. Il rapporto col Parlamento intendo le commissioni, il dialogo con i gruppi, eccetera, eccetera. Certo, lì qualcuno un po' più esperto di politica, di rapporti col Parlamento, non sarebbe stato male in un governo composto da tanti tecnici che non hanno mai avuto esperienze politiche. Sì, c'è Piero Giarda, economista, già sottosegretario del Tesoro nel governo Amato, D'Alema, Piero Prodi. Giarda è stato un uomo delle finanziarie, diciamo. Sì, era più tecnico, sì. Nel Parlamento, questo è vero. Però appunto i rapporti col Parlamento, non a caso. Sì, sì, che tu dici, però si poteva anche immaginare un ministro un po' più politico. Secondo te questo è un governo che punta ad arrivare ad aprile, cioè alle scadenze dei BOT, BTP, 200 miliardi da qua ad aprile, o punta al 2013? Ma neanche per sogno, questo è un governo che punta al 2013. Intanto perché ci mancherebbe altro che uno comincia un'opera dicendosi però tra sei mesi smetto, cioè... Certo. Dire, è normale che chi comincia un'opera si auguri che tu... Ma questo è normale, certo. Immagino il tempo possibile. In secondo luogo perché, io voglio solo ricordare una cosa, nella lettera del governo Berlusconi alla UE, che il PDL oggi dice deve essere... Il testo fondamentale, certo. Il cuore del programma di Monti, ci sono impegni scadenzati fino alla primavera del 2013. E anzi, tutti sappiamo che se veramente volessimo rifare l'Italia come un calzino, come tutti diciamo che si debba fare, altro che 2013, ci vuole anche più tempo. C'è una bella... ho capito che il tuo ragionamento è chiarissimo. Siamo purtroppo in conclusione, c'è una bella battuta che ti giro: i rapporti con il Parlamento li cura Napolitano, il governo del Presidente. C'è chi vuole scherzare anche su questo. Grazie Antonio Polito, editorialista del Sole 24 Ore e del Corriere della Sera, scusatemi, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.